Verità fondamentali. Le verità fondamentali della dottrina islamica corrispondono alla realtà oggettiva, in quanto la fonte informativa di esse è lo stesso creatore della realtà. Il concetto base è quello dell'unità, unicità e unipersonalità del creatore della vita, dell'uomo e del mondo, il cui nome è Allah, sia gloria a Lui l'Altissimo. Allah, il Dio, è il creatore di tutto ciò che esiste, è l'autore delle leggi che governano l'esistenza del creato, è l'onnipotente, l'onnisciente, l'onnipresente. È Lui, il Dio Allah, che si è definito così. In quanto creatore, solo a Lui è dovuta l'adorazione. In quanto autore delle leggi che governano il creato, solo a Lui è dovuta l'obbedienza. In quanto onnipotente, solo a Lui va diretta l'invocazione di soccorso. In quanto onnisciente, solo dalla sua parola viene la verità oggettiva e solo a essa l'uomo deve prestar fede. L'uomo è vicario di Allah sulla terra, Khalifa. Anche l'uomo, in quanto creatura, ha ricevuto da Allah, il Dio, delle regole di esistenza, mettendo in pratica le quali egli realizza lo scopo della sua creazione, che è l'adorazione. L'uomo ha un destino ultraterreno che dipende dal suo agire. Chi mette in pratica il codice di vita delle regole che Allah, il Dio, ha dato all'uomo, che ha dato all'uomo affinché egli realizzi la sua condizione umana e lo scopo della sua creazione, andrà in paradiso. Chi segue qualsiasi via diversa da quella indicata da Allah, il Dio, andrà all'inferno. C'è un'unica via per andare in paradiso, mentre innumerevoli sono quelle per andare all'inferno. Queste ultime sono tutte quelle che l'uomo ha la capacità di inventarsi, in tutto o in parte diverse da quella indicata da Allah per mezzo dei suoi apostoli e dei suoi profeti. Tutti gli apostoli e tutti i profeti di Allah predicarono e praticarono la stessa via, il cui nome in una parola è Adamo, Noè, Abramo, Ismaele, Isacco, Giacobbe, Mosè, Davide, Gesù e tutti gli altri apostoli e profeti di Allah, il Dio, furono musulmani e la loro religione fu l'Islam. A sigillo della missione apostolico-profetica, Allah, il Dio, suscitò in Arabia come suo apostolo e profeta Muhammad, figlio di Abdallah, affidandogli il compito di portare a tutta l'umanità la guida divina alla verità e il codice di vita per la realizzazione dell'autentica dimensione umana che sono contenuti nel sublime Corano.